stato qua, forse devo fare commissioni per mamma dopo, farmacia, che palle, che palle, che bolas, poi fra un po' mamma mia, domenica torna mia zia, mamma di turchi, viene qua a mettere a posto, aiutarci, il tè è cosa buona, però lo fa a modo suo, cioè viene, ci sta, viene tipo all'una, alle due, ci sta, se ne va alle nove di sera, è una tortura, però va fatto, va fatto. Inizia l'incubo di nuovo, vabbè. C'è tratta quella che c'è una mia parente così, un po' mi ricordo che era un po' violente quando veniva a casa di mamma, però si è fatta così, così aveva pazienza, si sta preparando per domani, ma voglio vedere questo temporale che c'è, si sta tutto già grigio. Guarda, almeno due meteo hanno detto che avrebbe piovuto oggi, tu ne hai visto pioggia, io no, tutto balle, dice anche domenica pioggia, forse anche temporale, domenica e lunedì, ah no, forse hai ragione, domenica e lunedì erano, sarebbero stati, ma staremo a vedere se pioverà davvero. Se piove ben venga, questo temporale, poi non dai, ma allucinate, meno che non inizia stanotte, ma mi sembra un po' strano, non so, comunque se piove fa bene, fa solo bene, perché qua non ce n'è, ma questo temporale che hanno detto mi sembra un po' strano. Aspettiamo. Veglia, vabbè, calmo sei, io sei ancora con le paturnie. No, tranquillissimo, serenissimo, va bene così, è vero quello che dice il proverbio, forse sbagliando si impara, non si finisce mai di imparare, e vabbè, pazienza. Natalino, ci sei all'ascolto? Capito, come ti vedini, ti idratani? Giusto anche quello, Marco. Giusto anche quello. Il colpo ci prende da giovane, neanche da grande. Pazienza. Poi io esprimo sempre il mio parere. Io esprimo sempre quello che penso, capito? Che sia brutto o bello. Non mi sbaglio mai, tranquillo che non mi sbaglio mai. Tranquillo, non mi sbaglio mai. E tutti usci. E vabbè. Cambiamo discorso. Vediamo intanto se c'è Valerio D'Alghiera. A proposito, chiamato Giuseppe stamattina. Dovevano farlo venerdì pomeriggio, invece poi hanno avuto problemi. Sai che adesso c'è buio alle 5:30 e quindi non ce l'hanno fatta, però è già tutto pronto, cavo saldato, controllato PL, controllato tutto, perfetto, cavo, tutto, PL, eccetera, eccetera, c'è solo mettere la scala, abbassare l'antenna, attaccare il cavo, infatti io ho detto per qualsiasi cosa fammi sapere, se riescono a fartelo 10 minuti lunedì mattina, nel senso che mettono la scala e gli attaccano il cavo, avvisami così, non mi pomeriggio. Subito dopo pranzo prendo la macchina e vado e finisco il lavoro. Tanto una volta che praticamente è fatto il lavoro grosso, non fare le altre cose all'interno e faccio, non aspettare poi a fine settimana, impegnare nuovamente a Massimiliano a venire su a farmi compagnia, se vediamo. Mi farà sapere. Ho visto l'antenna di Capri, sembra una, come si dice, una Mantova in miniatura, ma che antenna è quella? Ah boh, non lo so io che antenna ha messo, una Mantova in miniatura, e cosa c'è di Mantova in miniatura? Guarda, quando entrerà glielo chiederemo. Comunque, ma per tornare a Giuseppe, ma chi gliel'ha fatto questa saldatura, questo cavo? Quelli di GBC di Alghero? No, GBC di Alghero, ma Giuseppe, tu vedi dell'attendi, mica mi sono trovato, ho fatto una figura, un giorno siamo attivi con Massimiliano, sei in ascolto, stava arrivando. Allora, io mantenendo con la pinzetta per saldare, sai, quei connettori a punta, no? Io con la pinzetta mantenendo a Massimiliano per saldare i fili, cazzo, mi tremava la mano, non riuscivo, mantieni questo, non lo vedo, dammi a me, mi ha detto, dammi a me, senza occhiali, Marco, senza occhiali, senza niente, a mano ferma, con questa pinzetta le girava il filo da una parte all'altra, cazzo, una vergogna, io una vergogna. Sì, perché io ero più favorevole a fare tutto voi, comprare il cavo voi, perché lì chissà cosa gli danno, saldare voi, capito? Fare tutto voi, perché non lo so questi che cosa fanno, vabbè. Mi ha ricordato una cosa, qualcuno era andato a comprare un toroide, adesso non mi ricordo esattamente, da Grassi, un toroide, no? E come sarete, cos'è questo toroide? Perché da Grassi ci lavora un ragazzo, no? Che era compagno di scuola alle magistrali, magari alle magistrali era pure bravo, ma di elettronica non sa niente, quindi lui sa lì, serve le persone, ma per le cose specifiche deve chiedere. Aveva risposto, e cos'è il toroide? Capito, mi pare, il nome era Giampiero, capito, ha trovato lavoro lì, però insomma, nello specifico non conosce le cose, e quindi deve chiedere al superiore il toroide. Bene, poi sto aspettando una telefonata, ieri è venuto un amico, serata piena era, è venuto un amico che non vedevo da tanto, che forse rientrerà al baracchino se riesce, perché hanno fatto ristrutturazione del palazzo suo, ha dovuto togliere la mantova e tutto, quindi vedremo poi cosa riuscirà a fare, dai. Poi mi ha telefonato lo stesso una persona che non sentivo da tanto, e insomma serata piena, dai, che era al telefono, no? Che t'avevo detto che era al telefono, mi ha fatto piacere sentirli, ma alla fine, no. Insomma, va bene, insomma, che riuscirà a rientrare bene. Sono un po' soggiornato, devo comprare Rinazina per il naso, perché non, senza di quella mi si chiude e non riesco a respirare, insomma, devo fare commissioni dopo, se non la sento vado, se no lunedì. Ma a che ora vai? Sono già le 5:17:25, no, la pelle è Marco, è andato lui a comprare, ma cosa pensi che non vada? Ma sì, va, tranquillo, dopo lui a comprarlo, già lo conosce il cavo, già lo conosce, quello lì che c'aveva era un cavo che c'era già, capito? C'era già, è andato lui a comprare il cavo, addirittura ne hanno dato, gli hanno dato la matassa intera, perché lo conoscono, capito, conoscono molto bene, gli hanno dato i piedi nuovi, macchinette, gli hanno dato la matassa intera, e ci si porti via tutto quello che consuma, poi il resto già passiamo noi a prenderci, e ci porti, lo porti via. La matassa intera mi stava dicendo, lui ha già misurato tutto, negativo da giudizio, ma attivo, attivo, se ci arrivo io a quell'età attivo così, il piede se l'ha saldato lui, l'ha controllato col tester per vedere se era tutto a posto, da una parte e dall'altra, ci ha misurato, il suo lavoro era meglio. Ti mando lo schema che ha fatto dell'antenna, perché io avevo chiesto come era piazzata l'antenna. Disegno lo schema, ha fatto la foto dello schema e me l'ha mandata con tutte le misure, come sta fatta, come non è sta fatta, che distanza c'è dall'antenna TV all'attacco del PL, tutto. No, c'è un'unica cosa che non può fare, ma mi avete salire su, se non se l'avrebbe fatto lui il lavoro, poi il PL si è saldato lui, già tutto pronto, devo solo rimettere a posto un paio di cose all'interno e dare una mano a tirare il cavo, capito? No, no, non ti preoccupare per quello, è tutto ok. Basta. E poi devo, non dobbiamo mettere a posto il magazzino, quella roba lì, eccetera. Ma sto vedendo di riuscire nei momenti che sono. C'è, è abbastanza presente. Comunque sarà, ma a me con l'antenna che hanno messo a Giuseppe non mi scompifera, sai, era molto meglio un'energia mezz'onda. Vabbè, Natalino non funziona perché è troppo bassa, però a me funziona, parlo con Alghero, insomma, leggera, non devi tirantare, boh. Non mi ci fa la mia, a me questa antenna di marca sconosciuta peraltro, boh. Simil Ringo, a me già stanno sulle balle le Ringo. Vabbè, comunque fate vobis, ormai c'è quello e si usa quella. Comunque è stata una sua scelta, Marco, te l'ho spiegato, praticamente lui non vuole antenne con i radiali, capito? Perché intanto gliela rompono i gabbiani, ne rompono i gabbiani perché lì c'è il coso del il cassone, quello scarrabile del coso del supermercato, e scendono i gabbiani, prendono le buste e se li portano in volo. L'ultima antenna che ci aveva praticamente un gabbiano, cioè una busta si è appoggiato sopra l'antenna sua, i radiali, no? E l'ha spezzata in due col peso del gabbiano, eccetera, e quindi lui ha deciso di mettere l'antenna senza radiali, capito? Però ti ripeto, per il segnale che ha, lo senti tu, lo sentono, vabbè, qualcuno no, eccetera, ma dipende anche dalla posizione che hai, perché per esempio i punti è un problema, lo so anche dall'altro, è un problema per Alghero. Però tu a te ti arriva, Massimiliano arriva, a me arriva, Antonino vabbè c'è sto problema di cosa, a, come si dice, a Capri arriva, eccetera, ma come stava arrivando in quelle condizioni? Adesso una volta che il cavo è tutto a posto, che l'antenna funziona perfettamente, eccetera, e poi ho detto che mi segui lui le cose, perché l'altra volta non ha seguito assolutamente niente, perché non stava bene. Adesso lo segue lui, le fa fare il ciò che sotto, lui rimane fuori, quindi dice come devono fare, eccetera, e penso che il lavoro sia a posto. No, no, il cavo sarà preparato lui, no? C'è tutto pronto, c'è tutto lui già. Se avessi avuto qualche anno in meno, sarei salito, l'avrei attaccato io il capo, ma loro vengono, mettono la scala, mi attaccano il capo e basta, lo fa scelta, ma se ne vanno, poi il resto è tutto pronto, se l'ha già fatto lui, capito? Quello del capo invece ti stavo dicendo, perché ti ho detto una mantova in miniatura, perché è uguale alla mantova, solo che è molto più fina, capito? E c'ha tipo la mantova 1, c'ha tre radiali lunghi come la mantova 1, dritti così, messi in orizzontale. radiali. Marco, tre radiali, però è più fine, fine come tubo, fine come piantone, e c'è una, sopra dove si attacca il piede, c'è una tipo una spirale, capito, più piccola di quella della mantova. Guarda, tre radiali potrebbe essere la mia, ma c'è una spirale. Ah, mi pare che ce l'ha detto, è la, aspetta, la Tornado della Sirio. Sirio Tornado, ha dei radiali e poi una spiralina così, però è più sottile, è molto leggera, è leggera tipo la mia, capito? Non ne ha voluto più roba, sì, Tornado della Sirio, mi vai al catalogo Sirio e te la guardi, sì. Beh, diciamo, magari non renderà proprio come la Mantova, come fa la mia, non rende come la Mantova, però se la cava, dai, poi ce li metti qualche parte sotto, voglia. Sì, me ne sono ricordato, io sono abbastanza smemorato e rimbambito, però mi è venuto in mente adesso. Ok, ricordati, di grosso la Sirio fa la 827 e poi quella con il lampioncino trasparente con molti radiali. E di leggero fa la Tornado. Sì. Bene. Eia, poi quando entra te lo confermerà lui, vedrai. Sì, sono andato a casa sua l'altra volta a portarle il. Sono andato a portare il microfono e l'ho vista, bella, una bella antenna, solo che non è robusta come la Mantova, capito? Non è robusta come la Mantova, però si è detto, ma di nuovo la Mantova, non è certo come la metti, no, se l'ho guardata bene ho visto che la centrale è molto più fine, i radiali sono in alluminio fine, capito? Però bella, una bella antenna, e è una bella posizione su quella, non può tirare su molto. Poi l'impiazza, lui, capito, non è che questa cosa alta, non è che, però se fosse spostato un pochino più verso l'altro lato, dove c'è Giancarlo, sarebbe uscita una cannonata, però gli va bene, dai. L'importante è sentirsi, bisogna fare l'assirio, e bisogna che guardi su internet, però non è i cataloghi. Cataloghi oramai, e chi ne ha più guardato? C'ho qualche radio rivista ancora, però cataloghi non ho. Eia. Il prezzo vorrei sapere, per curiosità. La mia da GBC costa 90 euro. La 5 ottavi. Perché tanto mi se la ordini da fuori costa meno, ma c'è la spedizione, 15-20 euro di spedizione, più che altro per la lunghezza. Poi se c'è un problema la devo rispedire, e allora ho detto me ne frego, la compro a Sassari, così se manca un radiale, una cosa, un pezzo della staffa, almeno protesto qua. Invece c'era tutto. Io, guarda, preferirei non uscire, non me la sento di uscire. Poi adesso ho mangiato, mi sono appesantito pure, ho mangiato un sacchetto di patatine pieno. No, io leggero, non ricordavo, ho comprato mia moglie, ho mangiato così. Vabbè, no, bellina come antenna, bellina. Poi ti ripeto, non so che resa abbia, se, però, cioè vabbè, esteticamente è bella, va. Non è un'antenna che fa per me qua, io qua tocca la Mantova, se c'era la, tipo una di quelle, sicuramente l'avrebbe spezzata, l'avrebbe piegata al vento, troppo fine il centrale, capito Marco? Troppo fine, sì, quella stai dicendo, tu l'ho avuta io, la Superstellar, stai dicendo, quella col bicchiere, quella lì è tanti radiali. Una simile, guarda, dovrebbe chiamarsi, salvo imprevisti, Sirio 2016. Cos'è questo rumore? Ah no, niente. Sirio 2016, quindi in teoria ha 16 radiali, e poi c'è un lampioncino di, credo che sia, come si chiama? Policarbonato, dove dentro c'è la spirale in rame, capito? La protegge dall'acqua. E dovrebbe essere la Sirio 2016, pesante. Sia quella che la... quell'altra che ti ho detto, non mi viene il nome, sono tipo po' pesante, tipo Mantova. L'827 c'è l'Antonio di Ossi e si è trovato bene perché è ben rifinita, eppure c'è gente che si è lamentato anche di quella, che quando piove le stazionarie variano, un po' devono variare comunque, perché quando l'umidità o la pioggia bagna tutta l'antenna, no? Insomma un po' conduce l'acqua, insomma, come dire, l'acqua bagna tra stilo e radiale, un po' per forza devono cambiare le stazionarie, magari di poco, ma cambiano un E5, può essere, anche qua l'ha fatto, l'umidità l'ha fatto anche qua, ma poi quando si asciuga di giorno l'umidità tutto torna come prima, non è un problema. Poi, mamma mia quanto sale c'hanno queste patatine, è una cosa allucinante, però buone, patatine, ogni tanto bisogna sentire proprio il salato delle patatine. Ma tu già hai pranzato con le patatine? No, siccome avevo fame prima, ho aperto alle 5 un pacchetto di patatine e preferisco cenare anziché alle 6:30 e pranzare alle 8, capito? Quindi ho mangiato adesso, poi mangio dopo, poi sarò da mezzanotte la cena, roba da matti. Esce Maria, che mamma mia, devi avere uno stomaco di ferro tu, che... Mi Valerio, stomaco da struzzo, stomaco da struzzo. Purtroppo qua un disturbo elettrico. Manda avanti tu Valerio. Beh, Valerione, com'è? Sta preparando per piovere anche lì? No, ma comunque non penso ci sia temporale come abbiamo detto. Se piove va bene, Valerio, lascia piovere, voglio... giusto che piova. È giusto che piova, se poi fa temporale. Temporali anche quelli fanno parte di questo periodo, anzi anche troppo. Io infatti stanotte, si sa mai, metto le antenne a zero, le tifo le metto in netto, anzi lo sposto già, questo perché anche questi sono due, tre, aspetta, quattro e cinque. Ecco qua, qua c'è il nido, così è lì, su, aspetta, sì, è a zero, ecco qua, bisogna metterlo quando è attaccato, così è lì scatta, direttive sono già a neutro, a zero, poi stasera, quando spengo tutto, stacco le antenne qua, non si sa mai, si abbia le luci. Salva vita zero, può fare quello che le piace. Chi se ne frega? Avanti Marco. Eia, ma all'orizzonte non vedi niente, no, ancora? Se no stanotte comunque sta col PL. Adesso vado in bagno a lavarmi le mani, dai, che sono pieno di sale e di olio. Io Marco. No, qua non si vede niente. È solo grigio, ma ti dico ci sono gli alberi che sembrano pietrificati, non si muove una foglia. Lì com'è ad Alghero, Covale, vedi qualcosa di brutto, nero, oppure tutto tranquillo? Io beh, anche qua, come fatti ti ho detto, stavo c'è la Marco, c'è la finestra aperta tra l'altro, siamo a 20 gradi interni, cioè, la finestra aperta. C'è un filo di vento, niente, però domani mi sembra che abbia dato, così c'è scritto su internet, raffica il vento 26-27 km orari, è temporale, quindi sarà sicuramente qualcosa di passaggio, non penso che duri, però se c'è ben venga l'acqua, portanto non faccia danno, anche se i temporali iniziali di adesso e così, vabbè, faccia quello che vuole, vale. Intanto noi siamo dentro casa, quindi già non ci bagniamo. No, vento, lascialo, se arriva la pioggia bella, ben venga, ma il vento lascialo, il vento è fastidioso, vale. Mi disturba parecchio poi con la pioggia, non mi rompo le scarpe. Mi sembrava che stava tornando. fomentato, l'ha sentito quel rumore? Oh Claudio, ma a me questa sembra statica, questa che sento io, boh. Cosa? No, quello che ho sentito adesso era un ragazzino, mi sta scendendo qua nella discesa dal lato parcheggi con lo skateboard. Siccome stava entrato sotto il porticato e sono mattonelle, ho sentito questo molto, ma stiamo parlando di tuoni e sta già tuonando. Ma arrivando sta a me. No, ripeto, il disturbo anche sopra Valerio è, sembra quasi statica, era pungente, tant'è che ho dovuto mettere la NL noise blanker. Aspettami, scusa, il telefono. No, io ci ho inserito l'NB, quindi non sento scariche, ma me ne accorgo subito io quando è in avvicinamento temporale, vorrei anche tu, se usi la KF te ne accorgi subito, inizi a sentire queste scariche elettrostatiche, queste e dopo un po' inizi a tuonare. No, io stacco tutto quando sono queste previsioni così, ma stacco tutto, vuol dire non staccare niente, perché a me staccare tutto ci vuole un'ora. Però c'ho lo staccantenna delle direttive, quello no, che ti avevo detto, elettronico, quindi c'è il relè sopra che consente la commutazione all'antenna, siccome è alimentato, quindi come metto sul neutro, sul 5, la quinta posizione, c'è il neutro, e il relè chiude, non fa passare niente. Invece qua giù c'ho il commutatore, questo sulla T230, stacco direttamente l'antenna da dietro, metto a zero il commutatore, sul boom, e poi stacco l'antenna, meglio, la corrente, c'è tutto il salvavita dove aumenta, dove c'è la presa, è una presa lunga a 6, fatta fare dall'elettricista, dice salvavita, stacco lì. Non c'è corrente, non c'è tensione, sono a parte, perché la prima volta mi ha fottuto così. Questo cacchio ci abbatte, non posso dire che ci abbatte. Perché lì ho lasciato la radio 220 con la ciabatta inserita, fumo è entrato via corrente e ha disintegrato tutto. E vabbè, pazienza. Anche quella è un'esperienza. Sì, beh, è normale, ho scatti tutto, non scatti niente. No, ma c'è la radio, non l'avevo fottuto proprio una ciabatta, ed era quella ciabatta interruttore, quindi era spenta. Però quello che ha detto mi ha detto, ma non servono a niente. Anche se tu chiudi l'interruttore, appunto, che sembra che chiuda la corrente, ma non è così. Servono a nulla, una cosa proforme. E il fulmine, se il fulmine non c'è niente, che no, io lì alla Velcro ho comprato una tutta la coppia intera, no? Quella che va pure messa a muro, sai, negli uffici, eccetera. Di tre industriali e tre normali di presa, no? Quella lunga. Il mio collega elettricista mi ha fatto l'impianto, è passato al muro con sotto, presa la corrente dalla presa, messo salvavita a fianco, un piccolo così, una cosa di sicurezza, diciamo, dai, niente. Poi nella stanza mi ha messo due prese industriali, proprio di quelle industriali, sai, quelle grosse, una da una parte e una dall'altra. Se nel caso mi servissero le prese, quelle piccoline me le ha staccate tutte, le ha messo quelle tutte industriali, quelle grosse, che sono una, quella che ho dietro è doppia, è una normale e una industriale, e l'altra invece è lo stesso, tutte uguali sono, una industriale e una normale, capito? Vabbè, il giorno successo qua è stato, era una bomba. perché è caduto proprio qua nella cabina che io ho alle mie spalle, quindi a 20 metri c'è la cabina Enel che alimenta tutta la parte qua alta dei carbonati, e quindi è caduta proprio lì. E a me non ti dico cosa ha fatto, ho detto che è entrata proprio via elettricamente, è saltata in aria questa ciabatta, ma prima è passata dentro, c'era preso le fetti mille di Millone, ai troiesi un mio, no? Ci hai capito quale? Il doppio di quello era la radio, nuova, l'avevo comprata sei mesi prima, la tocchiamo al Millone perché è un bel grande, enorme, più grande di quella lì. Quella, poi il computer te l'ho comprato nuovo, due alimentatori, il 940 della Kenwood, il 275H che fortunatamente poi Fabrizio me l'aveva messo a posto, poi che cosa? Ah, scaldabagno, lavatrice, TV, un danno enorme mi ha fatto, un danno enorme. Soprattutto qua dentro, ma c'era qualcosa da fare del Millone, il 940, non mi ricordo, perché ero attaccato praticamente, avevo il 140 che se c'è tu, il 440, avevo staccato l'antenna, di corrente non ce n'era, ha preso le due radio a 220, perché anche il 940 è a 220, capito? Quindi ha preso le fetti 1000, il 940 a 220, che c'era la presa di alimentazione collegata, e poi tutto ciò che era collegato alla 220, tutto quello che era collegato alla 220 è partito, anche il computer, infatti l'ho comprato nuovo, me l'ha fatto avere Luca del Monte. Quindi quando entra si salve chi può, vale, non risparmia nulla, figurati tu, bisogna stare molto attenti. Infatti io ti ripeto, con l'esperienza che ho avuto, prima, perché poi 940 l'avevo fatto riparare e l'avevo venduto, l'FT1000 niente, l'ho mandato alla IAESO, la Siesong, mi hanno detto che non ne voleva la pena, e quindi mi avevano proposto di comprare, di versarglielo, che avevano loro, insomma, di riuscire a metterlo a posto, mi hanno proposto di comprare la radio nuova, infatti era uscito l'FT1200 e avevo comprato l'FT1200, quindi spese su spese, senza tutto il resto. Però poi con l'esperienza che ho avuto, ti ripeto, è venuto l'elettricista qua, il mio collega, mi ha fatto l'impianto elettrico, insomma, fatto come Dio comanda, senza queste ciabatte, senza queste, con il gruppo di prese della Ticino, insomma, roba buona, dai. E non posso rientrare, Marco ci sei? Marco ancora al telefono? No. Non rientrerà. Capito, vale, purtroppo è così. Addirittura un vecchio CBS radioamatore, grande di età, era entrato dall'antenna e si è fatto posto giù dove praticamente è entrato dall'antenna al cavo, ha fatto un buco, mi sembra da 3-4 pollici nel muro, è entrato dentro casa, dopo lui c'è tutta la sala radio tipo questa, ha incendiato tutto, da poco prende fuoco la casa, come Filippo Scetto. Filippo, siccome quando era piccolo, no, che c'erano i nettuni, si nascondeva sotto il letto, capito? Adesso che è grande, si nasconde sotto il letto, però quando passa sotto il letto lo solleva. E il leggero qualche giorno me lo spaccia, perché io ho il letto in ferro, no? È una lavetta, ferro battuto. Quindi sai che c'è quella, per mantenere le ante, ci sono quelle barre di ferro sotto. Qualche giorno la piega, e come sente il fumo, ne prende la rincorsa, boom, passa sotto e sente il letto, tudum, perché lo solleva. E brutto. No, io i tuoni sì, sono fastidiosi, perché il rumore è allucinante. Però c'è da avere più paura dei fulmini, dei fulmini. sono parole per definire questa cosa della natura, guarda. Mamma mia. I tuoi sono fastidiosi, perché se fai dormendo ti svegliano, perlomeno io cioè sono molto leggero. E quindi ti svegliano. Però anche i fulmini, sai, quel lampo proprio che fa illuminare tutta la casa. Adesso infatti ancora le lascio qualche settimana, poi inizio a togliere gli avvolgibili delle zanzariere, le metto solo d'estate in modo che si possano abbassare bene le avvolgibili, se no è un casino, capito? Sono quelle a blocco a metà che metto tutta l'estate per tenere sempre le finestre praticamente aperte in modo che non entra la mosca zanzara, però adesso vanno a porte dell'albo, le pulisco, le metto a posto e si ripiazzano la prossima estate. Va bene. Marco, vediamo. Marco, aiuto, ce la fai? Sei ancora al telefono? È lunga la telefonata. No, sto dicendo a Marco, chiamato Giuseppe stamattina, ho fatto una chiacchierata e praticamente sono arrivati che era già buio, quindi hanno rinunciato, poi gli hanno portato tutto, già saldato PL, tutto, già tutto pronto, solo mettere la scala, abbassare l'antenna, attaccare il PL, staccare il cavo vecchio, capito? Legarlo, no? Come si fa? Legarlo per fare la guida e tirare dentro nuovo e tirare fuori vecchio. Mi ha detto che glielo fanno lunedì però subito dopo pranzo, o forse anche in mattinata, perché sono rimasti un po' indietro. Sono andati alle 5, dopo le 5 mi pare era già buio, quindi no, non sono fidati a salire su, perché sai, ci sono le tegole lì, se sbaglio a mettere il piede al buio del gallo di osso. Sì, gli ho detto appunto di avvisarmi, se così non aspetto a fine settimana, non può. Se magari c'è qualche giornata brutta che Massimiliano lavora, perché lui sai, lavorando all'esterno, magari c'è qualche giornata di pioggia che non se lo lavora, ci facciamo un salto. Un'altra settimana li attacchiamo, ma una volta che loro fanno quel lavoro lì, a me interessa che le salgano loro ad attaccare il cavo. Poi il resto già è facile, capito? Non ho già preso tutto, c'è già tutto lui, tutto pronto, i PL anche già saldati, provati col test, il TOC, dobbiamo solo fare il collegamento interno al buco, che quello l'ho detto non toccare niente, lo faccio io con Massimiliano. E poi vediamo se sono rose e fioriranno, se no figlio la mola che si antenna la vuole tutta a pezzi. E vale un po' anche colpa mia, perché io mi sono fidato moltissimo del cavo, non ho mai controllato niente con la roba lì, capito? Anche per i colori come siamo andati noi due, PL presa attaccato così, ma poi sai, quando vai con calma, con tranquillità, ti segui bene le cose, ti ripeto, siamo accorti che il cavo non era il suo, quindi qualcosa c'era, che se no rimaneva sempre il dubbio, ma come mai, cioè quella radio uscita da qua, prima di dargliela l'ho testata io, provata, controllata, provata anche qua in radio, ho chiesto i controlli, tutto, la radio è a posto, l'amplificatore non ne parliamo, mai stato usato, insomma cosa c'era che non andava, qualcosa c'era, sai, io continuavo a prendere male con lui, non attaccare quello, non attaccare quell'altro, staccami tutti questi cazzo di cavi che c'hai, tutta questa roba, ma poi alla fine non mi aveva neanche colpa lui, perché capito, no, anch'io ce l'ho avuto, commutatore a 4, un 4 radio, commutavo, facevo, non ho mai avuto problemi, lì è nato proprio dall'inizio il problema, perché il cavo non era suo. Quindi spero che le cose adesso migliorino e che vada tutto bene, insomma, dai. Talino c'ha un bellissimo impianto, ad hoc, c'è un cavo buono, quello grosso, l'antenna nuova, l'unico indica perché l'antenna è bassa. Ci dovevamo pensare prima, capito, una volta che stavamo piazzando, buttare su due elementi in più. lassù, però il problema era anche un altro, non avendo i tiranti il pericolo era più costante, capito? Mentre invece così sappiamo che l'antenna non cade, non si spezza, non fa danno perché è bassa. Invece facciata già non scende, tranquillo quello non scende, però mi ci volevano per tirare su quell'antenna una fesseria, se ci dovessero far che è questo. Aspetta un attimo. Quanto? Ho trovato, il pulsante raccordatore era attento. Deia, e se no quanto hai? Allora, sul raccordatore mi dà poco, però sull'apparato mi dà parecchio. È quasi sulla zona rossa. Caspita, quasi a 3. Però se attacco invece l'antenna direttamente all'apparato ne ho di meno. Cioè ne ho 1,2, 1,3. Veglia, veglia, con l'accordatore, no? Poi ho notato una cosa, si accordo con l'apparato, prova a attenuarmi di segnale, cioè abbassarmi, non so, tipo 5-6. Cosa devo fare? Attenuarmi, cioè abbassarmi di segnale, che faccio delle prove, perché accordando, tenendo presente, diciamo, lo strumento del baracchino, o per esempio mi dà più di 25 watt modulati, se invece accordo dall'accordatore mi riabbassa a 20. Guarda, non ti posso attenuare perché ti porta sotto zero. Ah, ce l'hai all'interruttore, ce l'hai tu? No, è a levetta, però se ti abbattino del tutto vai sotto zero. No, pensavo che fosse come il mio, che è regolabile, no? Sì, è regolabile, solo che non riesci a mai mettere la posizione intermedia solita. Vuoi che ti attenui? No, ti attenuo. No, io ti posso far dare la segnale che voglio, perché è un potenziometro, quindi ti regolo a 7, 8, 2, 1, quello che voglio. Ehi, ti ho attenuato, dai, che prove devi fare? Aspetta che intanto accordo, e quindi fate il segnale, allora. Così. Quanto mi hai attenuato così? 8,5. Adesso provo a accordare invece con l'accordatore, aspetta. E adesso è cambiato qualcosa? 1 dB meno di 8,5. Quindi vedi, accordando con l'apparato che mi dà più watt, più forte, se invece accordo con l'accordatore mi dà meno, qualcosa in meno, meno guardi là. Strano, no? Ma è 1 dB, un dB, un decibel, no Santiago? È una cosa infinitesimale. Sì, perché l'accordatore, sai, si mangia un po' di potenza, perché c'ha quelle... insomma, per come è fatto, dai. Appena appena è potente. Ma 1 dB è un sesto di Santiago, capito? Un sesto di Santiago. Ma perché deve essere di quegli accordatori del Tagi? Mamma mia, abbassa le voci. Troppo voci, sì. Allora, questo non mi stai sblatterando addirittura. Apparire un cocomane. Un bruacone tragico. 4 watt qua. No, è la modulazione che è forte. Ma ti sembra ora di entrare, Natalino, ah? La modulazione era forte perché la colpa è mia. Adesso bene va. Adesso posso, invece vi ascolto allo stesso livello di Marco, se no uno è più forte, l'altro è meno forte, è un casino. Cappa. Deve essere che ho toccato il macchinino e quindi usciva più forte la situazione. Va. Meno male che mi ha avuto. L'altro giorno ho fatto la prova mi slateravi un canale con la radio forte, con la radio un po' altina, dai. E io tra un po' sono entrato così a fare una chiamata, visto che non c'era nessuno, al limite c'era qualcuno sul 20. Già conoscendo, sì. Sì, sì. Posso aumentare l'RF gain? Sì, sì, grazie, Marco. Ma ripeto, è una cosa infinitesimale mi per questo smitter, infinitesimale proprio. Cioè se metti il segnale a tutta potenza non vedi la differenza. Sì, infatti per quella persona che ti ho chiesto di abbassarmi il segnale, proprio per vedere, perché praticamente sullo strumento mi segna 5 watt in più, accordando allo strumento del baracchino. Se invece accordo con lo strumento diciamo esterno, perdo 5 watt. Eia. Non è rientrato Claudio, no? No, lo so, io sono entrato adesso, acceso prima di uscire, invece saluto gli amici. Ma già è tutta manetta qua, sì. La ricezione, dicomi. Vabbè, la lingua avete perso. Non ti sta seguendo, è a manetta la ricezione, in che senso? Vabbè, Natalino non ha mai niente da dire, vero Natalino? Ma perché non vai e ti accigli, come dicono a Napoli? Indovinate che ho visto poco fa all'Ocean? Falcone. Via. È ingrassato, vero? È invecchiato? Cosa aveva sempre quell'aspetto un po' suonato? Sì, mi è sembrato un po' impostato. Guardalo qualcuno, ha pedinato qualcuno, non lo so. È un po' strano. Praticamente abbiamo fatto, gli ha detto break, però no, forse non si ricorda più nulla. Eia, riprendi Natali. C'avevo un freddo, ero sotto le coperte. Ma fuori ci sono 22 gradi, figurati, caldo che c'è. Cioè ci sarebbe più caldo fuori che dentro. Io qua ho 20 gradi. Io poco fa in macchina rientrata, ho letto 22 gradi, ma si vede che ci eravamo male che cose stasera, Verrai arriverà l'acqua magari con questo caldo. Ehi. E voi ve l'avete combinato stasera? Dice che pioverà domani. Così dicono, le previsioni mi hanno battezzate così. E lunedì pure, ma poi fa due gocce e smette. Non dura, capito? Purtroppo non dura. Abbiamo bisogno di acqua, ma cioè, tranquilla, ma sempre andando. Ti voglio chiedere una cosa, quel canale internazionale dove sento gente, quello portatile, Marco? Il canale internazionale, quale sarebbe? C'è un link internazionale, dove sento parlare, adesso mi ricordo la frequenza, dovrebbe essere sui 431-225, mi sembra, una cosa del genere. 2375, sì, quello è il link CISAR nazionale, funziona in tutta Italia, sono ponti interconnessi. Ma quelli trasmettono, su quale frequenza trasmettono loro? Dipende dalla regione, c'è uno shift, uno spostamento da usare. Ogni regione ha un ponte in una frequenza diversa e lo stesso l'ingresso è in una frequenza diversa rispetto alla nostra. Noi da qua però potremmo parlare allora, anche se non si può, vabbè, ma diciamo teoricamente. No, quella è roba amatoriale, noi non ci dobbiamo nemmeno mettere piede, solo in ascolto. Sì, lo so, faccio adesso, teoricamente, visto che li sentiamo potremmo anche parlarci, essendo in regola. Sì, avendo la patente, a me non me ne frega nulla della patente. Ci avevo pensato, ma non ne vale la pena, guarda. Ci basta la B che abbiamo, allora. telefono, troppe spese, le antenne sono costose, non c'è spazio, mi devo azzuffare con il padrone nel terrazzo, no, non ne vale la pena, guarda. Penso che sia tolto anche l'attuviale, no? Penso che, aspetta che alzo il volume un po', ecco. Dico che bisogna anche studiare. Altro che se bisogna studiare. Si fa un esame e se passi, poi c'è tutta una prassi, una è l'autorizzazione, non so, non mi ricordo bene com'è. Perché una volta le cose devi chiedere il nominativo, dopo nativo, non so cosa devi chiedere, è tutto un pasticcio. Ma vabbè, neanche io mi ricordo una cosa del genere. Ehi, Natali, riprendi. Non ho voglia, no. Non trovavo il coso, non trovavo il, come si chiama, il mic. Addirittura. Al Conti, me. Anche in curva. Ehi. Ma sei al buio tu? No, non sono al buio, però caspitina. Sto leggendo roba al computer e non stavo seguendo più di tanto, capito? Ehi. Computer, ma vabbè, oggi sono stato tranquillo al computer, no, se no mi assilla troppo, poi ci vedo male, in lontananza, non vedo la TV, la vedo tutta sfumata, se sto al computer. Non hai occhiali? No, ma credo che siano da fare d'urgenza. Sì, io ho fatto queste progressive, le uso a tutto, dai. Sono lontano, vicino, legge. Sono anche fotocromatiche, quindi fanno anche gli occhiali da sole, no, non tantissimo, però un po' te la battono. Io, più che altro io sono astigmatico all'occhio sinistro, l'occhio destro così, diciamo che non ho più 20 anni. Quando guardo lo smartphone, sai che si guarda relativamente vicino, no? Poi l'occhio si abitua, non ha più elasticità di quando ero più giovane, guardo la TV e la vedo tutta sfumata. E devo abituare piano piano l'occhio, allora. È una seccatura. Io mi sono rovinato la vista col computer, anche col fisso, che stavo a 30 cm dal tubo catodico, col computer fisso. Lo sai, stavo gli occhi attaccati allo schermo, tubo cattolico, quindi fa malissimo. Sì, no, io invece al contrario, io dovevo allontanare, io sono un po' ipermetro, specialmente destro, proprio destro. Dai, qui siamo, sono pronti e vi saluto, ci sentiamo le prossime, dai, ciao Marco e ciao Natalino, riprendi la coi. Ah, stai chiudendo? Sto uscendo. Eia. Va bene, dai, io torno là, mi accendo la TV. Ciao Franco, ciao Natalino, mi accendo la TV, dai, che c'è fresco qua, c'è abbastanza fresco. Mi sono messo con la coperta a letto, dai, mi sta molto meglio. A domani, non credo entrerà più nessuno, non sento nessuno, quindi a domani, ciao ciao. Ciao Marco, ciao Franco, dai, alle prossime. Qui c'è mia moglie che non sta bene, io sono andando e tornando, va. Sì, ciao Natalino, bocca al lupo anche per la signora, dai. Grazie. Sì, Natalino, dai, lì vi dovete un po' aiutare a vicenda, e io lo stesso qua. Quando non sto bene io ci penso a mamma, quando sarà male lei ci penso io a lei, dai. Va bene, buona serata, dai.